24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, riparte una settimana di 24 mattino, sono le 6:35 minuti, siamo qui in diretta fino alle 9 e sono già arrivati i giornali nel nostro bar Radio 24. Provvediamo ad aprire con la nostra sala cinesca. Eccoci qua, Chi è? Ah, la solita. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, meno male, siamo rassicurati. Anche oggi offre Nicole Minetti e offre il caffè a Luca Telese. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Direttore, perché tra poco direttore di pubblico, cioè cosa può fare, la pazzia che può fare uno al giorno d'oggi in Italia è aprire un giornale su carta. E Luca Telese, com'è che vi siete messi in mente questa cosa? Domani esce il primo numero. Sì, domani esce il primo numero, stiamo facendo i numeri zero e sentivamo che mancava qualcosa. Quindi quando uno sente che manca qualcosa, dice proviamo a fare quel prodotto che vorremmo avere. Serviva forse un giornale che provasse a raccontare un po' più da vicino l'Italia che si è trovata nel turbine della crisi. L'abbiamo chiamata l'Italia del coraggio, l'Italia dei produttori, l'Italia di chi lavora e l'Italia di chi fa impresa. E allora volevamo raccontarla da vicino, un po' con una telecamera che sta al grado terra, no? Ed era così giusta questa almeno questa aspirazione, che nel tempo in cui noi abbiamo preparato questo giornale è successa vita di Dio. Abbiamo girato tutto il paese, abbiamo fatto 56 presentazioni, siamo stati al nord, al sud, siamo stati... guarda che è successo, mentre noi presentavamo il giornale in Sardegna la gente si è buttata in mezzo ai traghetti, mentre eravamo nel Sulcis la gente è scesa nelle miniere, quindi almeno il presupposto da cui partivamo, che era necessario chiudere con l'ossessione giudiziaria e con le chiacchiere di palazzo, questo era giusto. Se poi già la prima frecciatina al Luca Telese scriveva sul Fatto Quotidiano, ma tra poco ci arriviamo. Intanto io, Luca Telese, tu conosci Bimbo Alieno, che è un blogger economico e finanziario molto noto su Twitter, dovresti seguirlo. Bimbo Alieno, buongiorno, è con noi anche oggi. Bimbo Alieno non buongiorno è il suo vero nome, ovviamente. Luca, ti leggo i titoli dei giornali arrivati qui al nostro bar. Vabbè, il Sole 24 Ore: per 100.000 società bilanci in rosso da 3 anni, insomma una buona notizia. Per il Corriere della Sera i numeri dei ritardi italiani, siamo ultimi in produttività, benissimo. Repubblica, Fornero, ecco cosa chiedo alla Fiat. E poi La Stampa, ecco, La Stampa è l'unica insieme al giornale che riparte da Berlusconi. Berlusconi riparte dall'IMU, è tornato Berlusconi. Quanto vi occuperete di Berlusconi, Luca Telese? L'IMU, tolgo l'IMU, ha detto Berlusconi nella sua prima intervista. Guarda, avevo 20 anni quando Berlusconi ha fatto la sua prima campagna elettorale, poco più di 20 anni, adesso ne ho 42 e da 20 anni Berlusconi fa campagne elettorali ed è tornato per la 6ª volta. Mi è venuta in mente la battuta del vecchio Marx che diceva la storia si ripete sempre 2 volte, la prima in forma di dramma, la seconda in forma di farsa. Ecco, ne parleremo quel che si deve, però il berlusconismo reale è già finito. Però se Berlusconi stesso, noi dobbiamo fare questo titolo e poi penso che vedrò che io avrò 60 anni e lui tornerà per la 12ª volta, avrà i capelli come Jimi Hendrix, è un nuovo lifting, ma santo Dio, non è che nessuno pensa che il berlusconismo possa di nuovo governare l'Italia come sperava di fare. Beh, lui dice di sì, ma adesso non si capisce se scenderà in campo, se non scenderà in campo, se non riscenderà in campo oppure no. Sta di fatto che così ha detto su Berlusconi, ha detto l'IMU la togliamo. Ha anche detto, per la verità, questa è una cosa che mi colpisce, nella lunga intervista che potete leggere sul giornale, ha detto anche questo. C'è ricascato, secondo me, su questo tema. Grazie alle nostre riforme molti ragazzi non fumano più, hanno smesso di fumare e sono calati i casi di cancro ai polmoni. No, abbiamo sconfitto il cancro, cioè è come i vecchi successi, ma io, ma veramente dispiace che lui stia ancora là con questa, con questa ossessione di pensare di poter cambiare il mondo. Cioè siamo un paese veramente che sta ai materassi. Se arriva uno con la bacchetta magica, io diffido dell'idea che gli italiani possano dargli credito. Comunque, siccome il tema è molto popolare, l'IMU ha messo il dito nella piaga di molti italiani. Sentiamolo cosa ha detto sull'IMU. Uno dei programmi di governo nostro, come abbiamo abrogato l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, così abrogheremo subito l'IMU, perché la casa è il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di fondare la propria sicurezza del futuro. Ecco, ovviamente gli applausi, perché cosa c'è di più popolare? Anche a Bimbo Alieno vorrei un commento così molto fresco. Cosa c'è di più popolare che toccare il tema dell'IMU, la casa degli italiani? Popolare, è molto popolare la casa degli italiani, l'IMU, tutti la pagano, hanno pagato la prima rata, chi ha la casa pagheranno la seconda, e quindi è una cosa odiata dagli italiani, è innegabile, sì, questo. Indubbiamente, avrebbe da chiedere la copertura qual è, però, perché come al solito in campagna si fanno le promesse dal lato positivo, non si mostra il lato negativo, perché comunque i numeri devono tornare, piacerebbe sapere, visto che l'IMU ce la riproviamo così dura, proprio perché è stata rimossa l'ICI prima e si è creata un'esigenza più grande, a rimuovere l'IMU vorrei sapere con che cosa verrebbe coperta l'abrogazione dell'IMU. Poi sul fatto che non piaccia a nessuno penso che non ci sia dubbi. Alessandro? Sì, Luca, dici. Beh, vedi, Bimbo Alieno batte il tasto su una cosa ovvia, però io una cosa che vorrei fare su questo giornale è fare una cosa che fanno gli americani, cioè pubblicare gli elenchi di quello che è stato votato dai parlamentari, così la gente dice bene, è lui, non è lui, cioè qui il 90% dei parlamentari italiani, fra cui tutti quelli del PDL, ha votato l'introduzione dell'IMU, e santo Dio che il leader di uno schieramento inizi annunciando programmi di fuoco per cancellare le riforme che lui e i suoi eletti hanno appena votato, beh, fa un po' ridere. Ma anche sul Fiscal Compact, per esempio, no? Che molti l'hanno appena votato. Capisco che il tema è molto complicato nel nostro bar, però insomma l'hanno appena votato, effettivamente. Ma e poi ha parlato di Renzi. Beh, quello è un colpo veramente gobbo, no? Dire di Matteo Renzi porta avanti le nostre idee nel Partito Democratico, cioè fa quello che accusano tutti di fare a Renzi, cioè vuole sfasciare il Partito Democratico, e Berlusconi che gli dice? Eh beh sì, Renzi è uno dei nostri in pratica, no? Così gli ha detto Luca. Sì, questo è, non so che cosa è più drammatico per la sinistra in questi giorni, cioè questa frase di Berlusconi su Renzi o l'annuncio di Rutelli che vuole tornare nel PD. Rutelli vuole tornare nel PD, panico fra gli elettori, e il povero Renzi gli sarà preso un colpo quando ha visto che Berlusconi gli metteva questa specie di croce sulla testa. Anche lui però non ha fatto da meno, se è vero che ha addirittura fatto un appello agli elettori di centrodestra perché vadano a votare. Sì, sì, sì, però non alle primarie, ma avanti. Ma però, Bimbo Alieno, la questione dell'IMU, ma davvero questo tema della copertura è così impossibile? Cioè, cerchiamo di farlo capire anche alle persone che sono appena svegliate, che magari tra poco stanno mettendo da parte i soldi per pagare la seconda rata in arrivo dell'IMU. È davvero impossibile, impensabile togliere l'IMU. Ma no, non è che sia impensabile, la questione banalmente, proprio riallacciandomi al Fiscal Compact che citavi prima, cioè l'impegno al pareggio di bilancio, che ricordavi bene tu, è una proposta che arriva dal giugno del 2011, governo Berlusconi. Il Fiscal Compact ci impone ad avere delle uscite pari, a raggiungere un obiettivo di uscite pari alle entrate, per cui se noi riduciamo le entrate bisognerebbe spiegare a quale uscita rinunceremo, oppure in quale altro modo faremo quelle stesse entrate, perché comunque l'IMU porta qualche decina di miliardi di euro nelle casse dello Stato, per cui o lo Stato rinuncerà a qualche decina di miliardi di euro di spesa e ci farebbe piacere sapere dove, oppure viceversa prenderà in altro modo con le stesse somme. Però quella potrebbe essere la soluzione, un bel drastico taglio della spesa, un modo per recuperare risorse in quel modo, e gli italiani sarebbero tutti molto contenti. Tagliamo la spesa di 1-2 punti percentuali, recuperiamo soldi lì e così li mettiamo invece di prendere soldi come al solito agli italiani. È davvero utopica la spesa è una voce impersonale, poi dopo bisogna capire cos'è il taglio della spesa, perché se il taglio della spesa è non lo so, non gli ospedali, certo, non gli ospedali. Benissimo, non l'istruzione. Beh, che ne so, immagino proprio di sì. Vabbè, non vogliamo fare il qualunquismo di tagliare un po' di stipendi ai parlamentari, per carità, non lo facciamo questo qualunquismo. Ma ripartiamo tra un attimo dopo le informazioni sul traffico. 24 mattino. Allora siamo qui a bere il caffè con Bimbo Alieno e con Luca Telese, che è il direttore di Pubblico, oltre che conduttore di La 7. Luca, avete già deciso domani come uscite? No, ovviamente. No, assolutamente no, perché i giornali si fanno ogni giorno. Però vedi, anche questi discorsi sui tagli, come se si potesse dare un colpo di scure e magicamente rimettere tutto a posto. Noi stiamo cercando di fare un inventario dei disastri che sono stati già attuati. Forse non ne ha parlato la grande informazione, ma a Torino 10 asili pubblici quest'anno non aprono e verranno sostituiti da appalti a società private. E abbiamo scoperto, dopo aver scritto questa cosa sul nostro sito pubblicogiornale.it, che la stessa cosa sta accadendo nei comuni della Toscana, sta accadendo nell'Alto Lazio, accadendo a Firenze, cioè i tagli ai servizi pubblici stanno accadendo già adesso. Cioè già adesso ci sarà metà delle scuole, degli ospedali. Ma quello sì, ma io dico, si vendessero, che ne so, una cinquantina di caserme, una quarantina di edifici dello Stato utilizzati lì per nulla, e magari un po' di dismissioni, magari non riduciamo così la spesa, ma facciamo un po' di cassa, per esempio, no? Ma io credo che nessuna famiglia, ecco, noi siamo Pubblico perché siamo anche per la difesa dei beni pubblici, cioè nessuna famiglia si vendono sotto costo i beni e gli orecchini di famiglia per pagare un piatto di minestra, no? Quindi il tentativo di portare alla svendita del patrimonio immobiliare o industriale italiano, beh, questa è una cosa veramente grave. Cioè, non si va al Monte di Pietà per pagare la paghetta del... Ma svendita no, però ci sono, che ne so, le caserme inutilizzate, moltissime, da quando ovviamente non c'è più la leva obbligatoria, i numeri dell'esercito sono, non è che ce le stiamo inventando noi, sono lì quasi inutilizzate, in alcuni casi sono dei presidi di 4 militari che impediscono la vendita. Sì, in questo momento verrebbero vendute alla metà del loro valore. E beh, questo sì. È la partita. Questo sì, se uno deve vendere. Come uno che sta in mano allo strozzino. Noi siamo nelle mani degli strozzini. Che sono? In Europa? No. No, dico gli strozzini è... La situazione. Il momento del mercato. Di certo, Luca, non vedremo le foto che poi potete vedere anche Bimbo Alieno, io le ho già qua davanti, le ho sfogliate già una quarantina di volte, sul numero straordinario di chi che oggi trovate in edicola e che ritraggono, sapete già chi, la principessa Kate Middleton a seno nudo. Questo è il dato di fatto. Ma sapete che sta succedendo un caso? Cioè, è un paese in cui la presidente della Mondadori, Marina Berlusconi, ha dovuto spedire due lettere pubblicate oggi sul Giornale e oggi su Repubblica per dire: mio padre non c'entra nulla con la pubblicazione di queste foto a seno nudo della principessa Kate sul quotidiano Chi di Mondadori. Perché mio padre fa politica, non si occupa di foto, eccetera. Luca, siamo a questi livelli che bisogna prendere carta e penna e spiegare che l'ex presidente del Consiglio non c'entra niente con i rapporti con la regina d'Inghilterra per le foto pubblicate su un giornale? Oggi ho letto stanotte, perché compro il giornale a notte, lo posso con enorme goduria il pezzo di cui parli, il botta e risposta fra Merlo e Marina Berlusconi. Berlusconi. Però c'è un punto di verità, no? Purtroppo gli inglesi non credono alle fate. Noi ci abbiamo creduto, ma quando Merlo dice: scusami, ma è lo stesso Berlusconi che offrì al povero Marrazzo di ritirare le foto dal mercato per conto suo. Cioè, purtroppo il conflitto di interessi è una cosa che scoppia come una bomba. Oggi sugli stessi giornali, in pagine diverse, c'è la notizia di Mediobanca, no, non dico Che Guevara, ma Mediobanca che scarta Mediaset dall'asta per la Telecom, e la notizia di una specie di guerra diplomatica senza precedenti, perché gli inglesi non credono che Berlusconi possa essere così distante dalle sue proprietà, o almeno che ne abbia una responsabilità oggettiva. Questo è per dire, no, ma per dire che c'è, sì anche in questo si può vedere una sorta di conflitto di interesse. Noi ci abbiamo creduto, gli inglesi non ci credono. Dico, è tuo sto giornale, e allora sei tu il responsabile. A proposito di questo bimbo alieno, visto che siamo in chiusura del nostro bar, ma la vicenda la 7 media 7, cioè, perché bimbo alieno è uno che sulla borsa, su come sono gli andamenti, sui titoli, su quello che succede, ci sa dire qualcosa, succede qualcosa, dobbiamo stare attenti a qualcosa, perché sapete che Mediaset ha dato manifestazione di interesse per l'acquisto di La 7, anche qui polemiche eccetera. Succederà qualcosa sul mondo dell'informazione? Dobbiamo stare con gli occhi attenti da qualche parte? Beh, qualche mese che succede qualcosa, no? Sulla 7, Telecom, Emilio Bernabé ha fatto capire che comunque potrebbe essere ceduta, non è da considerarsi un asset core comunque strategico per l'azienda, quindi devo dire che stupisce un po' l'interesse di Mediaset, perché le difficoltà del gruppo sono notevoli quest'anno, la raccolta pubblicitaria in grande calo. Onestamente mi ha stupito questa manifestazione di interesse, anche perché credevo che ci fosse il limite di 3 reti per c'è l'antitrust, e quindi si vedrà se l'antitrust dice qualcosa. Io intanto vi ringrazio, Bimbo Alieno e Luca Telese, direttore di Pubblico, da domani in edicola, ovviamente in bocca al lupo per un nuovo quotidiano che esce nelle edicole. Ci fermiamo e riprendiamo dopo il giornale radio alle 7:20 con la lettura dei giornali in edicola. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Uno dei programmi di governo nostro, come abbiamo abrogato l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, così abrogheremo subito l'IMU, perché la casa è il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di fondare la propria sicurezza del futuro. Un galantuomo che tiene 6 figli ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le 3, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Siamo qui ancora, allora, cari ascoltatori, alle 7:21 minuti, siamo pronti a leggere i giornali dopo aver aperto il nostro bar Radio 24, ormai siamo in onda dalle 6:35, minuto più, minuto meno, chi non lo sa è veramente un addormentato. Allora, oggi avremo ospite tra un'ora, anzi meno, alle 8:15, il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, ai nostri microfoni. E poi parleremo di quello che sta succedendo invece alla regione Lazio, dove addirittura in un consiglio regionale straordinario potrebbero arrivare oggi le dimissioni del governatore Polverini, perché i presunti scandali delle spese bizzarre coi soldi nostri, anche di Filippa Oreggi in regia, per il contributo ai partiti con i quali si sono comprati, pare, BMW, Smart, cene, book fotografici, cene per 50-60 persone, manifesti elettorali. Ora l'ultimo che è venuta fuori, pare, anche interviste televisive comprate su TV locali. E va bene così, andiamo avanti così, va tutto bene, tutto sotto controllo. I giornali in edicola questo lunedì 17 settembre. Intanto i titoli, il Sole 24 Ore: gli effetti della crisi per 100.000 società, bilanci in rosso da 3 anni, questo è il titolo di apertura. L'ottimismo non c'è neanche sul Corriere della Sera: i numeri dei ritardi italiani, produttività 40 anni fa primi tra i grandi, ora ultimi. È un rapporto del CNEL che è anticipato dal Corriere. Repubblica, il ministro Fornero e il caso Fiat. Fornero, che cosa chiedo alla Fiat? E poi il ritorno di Berlusconi, il giornale, c'è l'intervista, la prima intervista dopo tempo a Silvio Berlusconi. Berlusconi ci svela il piano, questo è il titolo. Per la stampa, Berlusconi riparte dall'IMU. Il messaggero, Berlusconi contro tasse e Unione Europea. Il secolo, torna Berlusconi via l'IMU. L'unità, Berlusconi, il nuovo che avanza. Questi titoli di apertura dei giornali. Io voglio partire da quello che trovate in prima pagina del Corriere della Sera. Se siete dipendenti pubblici e quindi avete il blocco automatico dell'aumento degli stipendi, gli scatti automatici bloccati da 20 anni, sappiate che questo vale per tutti, ma non per tuttissimi, eh? C'è una categoria, come scrivono oggi Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, leggermente privilegiata. Chi sono? I dipendenti del Parlamento. Gran raduno in Senato per difendere gli scatti. Questo è il titolo dell'articolo di Stella e Rizzo in prima pagina del Corriere. Non soffrono solo i minatori del Sulcis, anche i dipendenti del Senato sono sul piede di guerra. Temono vengano tolti loro gli scatti automatici in busta paga aboliti per tutti gli altri impiegati pubblici 20 anni fa. Automatismi che ancora oggi consentono a Palazzo Madama, nell'arco della carriera, perfino di quintuplicare lo stipendio al di là del merito e di guadagnare mediamente 149.300 euro, oltre il quadruplo di uno statale medio italiano. Breve promemoria. La scala mobile che adeguava in automatico le buste paga di tutti i lavoratori fu minata da Craxi nell'84 e soppressa definitivamente da Amato nel 92. Gli scatti automatici che fissavano gli aumenti furono tolti a tutti i dipendenti pubblici col decreto numero 29 del 93, insomma quasi 20 anni fa. Da allora gli unici scatti automatici buoni per gli aumenti in busta paga nel settore pubblico sono rimasti quelli della scuola. Ovvio, chi entra come maestro alla scuola materna o professore di matematica alle medie a fine carriera farà ancora, a meno che non cambi lavoro, la maestra alla scuola materna o il professore di matematica senza alcuna possibilità di aumenti dovuti alla bravura professionale. È vero, scrivono Stella e Rizzo, anche nel settore privato è rimasto qualche residuo. Gli stessi giornalisti, per esempio, pur avendo cambiato le regole, hanno conservato scatti automatici che tuttavia possono portare in totale nell'arco della vita professionale a un aumento massimo dichiarato del 72%. Nel caso invece di dipendenti degli organi istituzionali, Senato, Camera, CNEL, Corte Costituzionale, la faccenda è diversa. Prendiamo Palazzo Madama, nel 2010 spendeva per stipendi e emolumenti vari del personale dipendente 137 milioni e rotti di euro, il che significa, con 938 dipendenti, una retribuzione media lorda di 146.146 euro più i contributi. Ebbene, che succede? Succede che oggi, scrivono Stella e Rizzo, i dipendenti del Senato questo pomeriggio si ritroveranno in un'assemblea convocata da CGIL per denunciare la minaccia che siano toccati quei meccanismi automatici di progressione degli stipendi. E scrivono i due giornalisti: sarebbe un peccato se i dipendenti alzassero le barricate, guai se lo facesse per rastrellare consensi qualcuno dei 14, avete udito bene, 14 sindacati autonomi interni, cioè neanche 1000 dipendenti e 14 diverse sigle sindacali. Credono davvero che se si asserragliassero in cima a una gru o nel pozzo di una miniera per difendere i loro diritti acquisiti, così gli italiani capirebbero? Finisce così l'articolo di Stella e Rizzo, Senato, gran raduno dei dipendenti per difendere gli scatti di stipendio. Oggi. Ebbene, voglio andare sul Messaggero invece per raccontare, nei giorni in cui sono iniziate le scuole da una settimana, oggi abbiamo sentito iniziano anche nelle zone colpite dal terremoto, c'è un progetto del Ministero che riguarda molte famiglie, chissà come la pensate, prima elementare a 5 anni. Questa è l'ipotesi di studio del Ministero dell'Istruzione, un progetto che serve in realtà per anticipare la maturità, cioè arrivare prima, un anno prima, al conseguimento della maturità. Anticipare di un anno l'esame di maturità, far coincidere la fine degli studi col compimento della maggiore età, questo è il progetto all'esame di un gruppo di esperti del Ministero delle Istruzioni. Due sono le strade su cui si sta ragionando per raggiungere questo obiettivo. La prima prevede l'ingresso anticipato nella scuola elementare, quindi iniziare le scuole elementari a 5 anni. La seconda, invece più difficile da realizzare, creerebbe due blocchi di studio di 5 anni l'uno, più un biennio finale che consentirebbe anche l'accesso all'università. Ma il vero progetto che fa discutere è questo: in prima elementare a 5 anni. Tutti i dettagli descritti da Alessia Camplone li trovate poi a pagina 11, quindi all'interno. Il diploma arriverebbe dunque ai 18 anni come nel resto d'Europa. Ci sono già il dibattito, come per esempio l'intervista a Giovanna Bittoni, un insegnante che usa il metodo Montessori, quasi 40 anni di insegnamento a Roma, che dice no, a quell'età sono troppo piccoli. Insomma, il dibattito è già aperto: prima elementare a 5 anni sono troppo piccoli, oppure c'è chi pensa che siano già in grado di affrontare la scuola elementare. Insomma, è un tema annoso che però è ora allo studio del ministro dell'istruzione Profumo, che ha creato, dice il Messaggero, una task force per studiare una modalità per far arrivare i nostri studenti al diploma un anno prima rispetto a quanto avviene ora. Questo è lo scopo finale. Ci riusciranno i tecnici oppure no? Intanto noi ci fermiamo 5 minuti. Alle 7.35 minuti allora continuiamo la lettura dei giornali. Per quel che riguarda la politica, è tornato Silvio Berlusconi sicuramente in un'intervista dopo mesi di silenzio, è salpato su questa crociera con i lettori del giornale e c'è da dire che trovate l'intervista a due pagine, pagina 2 e 3 di Berlusconi intervistato dal direttore del giornale Alessandro Sallusti. I sostenitori di Berlusconi diranno: oh, finalmente è tornato con i proclami, toglieremo l'IMU, questo è il più importante, si è scagliato contro le tasse, il fiscal compact. I detrattori di Berlusconi diranno: ma è la solita solfa che tenta di propinarci e l'Italia non ci deve credere. Comunque, stralci dell'intervista, i più interessanti, intanto inizia dalla politica estera. Abbiamo fatto miracoli, l'Italia non contava niente, era in ginocchio in Europa di fronte alla Germania e alla Francia. Io in ginocchio non mi sono mai messo di fronte ai leader di questi due paesi, così Berlusconi. Ma lei è stato accusato di fare la politica del cucù, sapete il cucù ad Angela Merkel. Ho fatto non la politica del cucù o delle pacche sulle spalle come mi hanno accusato di fare, ma ho stabilito con i miei colleghi un'amicizia non solo cordiale ma affettuosa. Certo, l'unico rapporto compromesso è quello con Sarkozy. Avevamo un rapporto molto buono, ma a un certo momento ce l'aveva con me dopo la nomina di Draghi alla BCE. Arrivammo a un punto in cui addirittura una volta ci incontrammo a un consiglio europeo, gli tesi la mano e lui la scartò. Una persona in cui l'arroganza vince sull'intelligenza. I francesi l'hanno capito. E poi eccolo qui, il Berlusconi d'attacco sulle tasse. Il fiscal compact intanto impone ai paesi che hanno più del 60% del debito pubblico di ridurre del 5% all'anno il debito stesso. L'Italia dovrebbe ridurre il suo debito di 40-50 miliardi ogni anno, una cosa assolutamente impossibile. Anzi, sarebbe possibile se l'economia fosse in crescita, ma se si aumentano pressione fiscale e tasse non si sostiene la crescita e si va verso una recessione indefinita. Ed eccolo l'ICI, come abbiamo abrogato l'ICI così abrogheremo subito l'IMU, perché la casa è il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di fondare la propria sicurezza del futuro. Poi Renzi, questo, come dire, l'abbraccio dello scorpione, no? Sembra. Su Renzi, porta avanti le nostre idee, si è verificato un fatto positivo con lui, ha cominciato un giro d'Italia. Sotto la sigla del Partito Democratico porta avanti esattamente le nostre idee. Questo ci fa piacere, perché se accadesse un miracolo, cioè che Renzi vincesse le primarie e fosse così il leader del PD, si verificherebbe in Italia questo miracolo, che finalmente il Partito Comunista, che ha tante volte cambiato nome ma mai modo e concezione, diventerebbe un partito socialdemocratico. Quindi tanti auguri a Matteo Renzi. Non c'era modo migliore per far vedere Renzi all'interno del centro-sinistra con il furore negli occhi da parte di qualcuno. Infine Berlusconi, questa la ridetta, bisogna dire. Tra le varie cose che ha detto, noi abbiamo fatto tante cose positive, tra queste con noi non si fuma più nei locali pubblici, 500.000 di italiani ha smesso di fumare e così sono calati i casi di cancro ai polmoni. Silvio Berlusconi. Renzi come ha replicato? Beh, Renzi ha detto: il primo che verrà rottamato dovessi andare, diventare premier, andare al potere eccetera, sarebbe proprio il cavaliere. Certo, anche Renzi è caduto poi in una battuta così: dopo il governo Berlusconi anche un esecutivo guidato dal Pulcino Pio avrebbe più autorevolezza, così ha detto Renzi. Insomma, a volte il livello del dibattito politico è poi un po' abbattute, no? Però in realtà poi Renzi ha detto è un tentativo di sgambetto al PD questo endorsement, questo abbraccio di Berlusconi. È normale che faccia il tifo per Bersani o Vendola, sa che se vinciamo noi lui è il primo rottamato. Questa è la risposta di Renzi. Insomma, torna Berlusconi, dice no all'IMU, basta tasse, e Renzi risponde: se sarò premier lo rottamerò per primo. Questo per quel che riguarda sicuramente la notizia politica del giorno, come l'altra notizia politica è quello che sta succedendo alla regione Lazio, dove oggi potrebbe rassegnare le dimissioni la governatrice Renata Polverini, che vuole vederci chiaro sui presunti scandali: l'ex capogruppo del PDL Fiorito è accusato di peculato, l'utilizzo di soldi del finanziamento pubblico ai partiti, quindi soldi nostri per cose loro, tipo acquisto anche di macchine, BMW, feste. Ebbene, oggi c'è il Consiglio regionale straordinario, noi ne parleremo alle 8.30, l'ultima battaglia Polverini-PDL, riunioni, incontri, Angelino Alfano che dice non abbiamo nulla a che fare con i mascalzoni e cacceremo i rubagalline. La Polverini che pare, secondo il Messaggero, pronta a dire oggi basta, mi dimetto. Tra l'altro ci sono due interessanti articoli, uno di Fabrizio Roncone, Erbatman e i suoi fratelli. Erbatman, sapete, è Francone Fiorito. Francone perché basta vederlo in foto, si capisce perché è Francone. Erbatman perché leggenda vuole che una volta sia caduto da una moto da fermo. Da quel giorno è soprannominato Erbatman. È lui che è indagato per peculato. Inventario politico laziale tra festini, ostriche e bignè. Fabrizio Roncone, a pagina 21. Comunque vada a finire, già una storia tragica, magnifica, emblematica. Dentro c'è tutto il peggio della politica italiana. Sprechi, lusso sfrenato, arroganza, volgarità, corruzione. Prendete il protagonista principale, Franco Fiorito, detto Erbatman. 41 anni, di Anagni, ciociaro furbo e prepotente, carismatico, spregiudicato e impulsivo. Uno di quei politici che trasformano i voti degli elettori in potere e ricchezza e che in procura arriva sfacciatamente a bordo del SUV comprato coi soldi del suo partito, cioè i nostri. Un BMW X5 da 88.000 euro. E alla domanda sì, lo so, avrei diritto come presidente di commissione all'auto blu, ma l'auto blu non mi bastava. Avevo un tremendo bisogno di questo SUV. Oppure gli contestano l'acquisto di una Smart super accessoriata da 16.000 euro, ma è troppo piccola per me, non riesco manco a entrarci, così l'ho lasciata a disposizione dei colleghi. Ecco, solo questi stralci di interviste. Oppure il capogruppo che è subentrato a lui, Francesco Battistoni, intervistato proprio da Roncone qualche giorno fa, l'altro ieri. Le cene contestate da 6.000 euro. Ma che 6.000 euro? Beh, quanto costavano allora? Beh, 4.000 circa. 4.000. Insomma, e Roncone dice, beh, 4.000 euro. O ancora Francone Fiorito, noto per aver detto una volta me son magnato 12 bignè allo Zabaione. Trovate vari articoli su questo. Le spese d'oro per gli assessori, oltre 5 milioni all'anno ai tecnici. Il Tempo anche apre su questo, la regione più cara d'Italia. I PM accelerano sull'inchiesta e Fiorito oggi si presenta in procura, questo per Repubblica, mentre il Messaggero, che ovviamente ha varie pagine su questo tema, vuole accendere invece i riflettori su un'altra vicenda: verifica sulle interviste a pagamento. Questo potrebbe essere il nuovo fronte, si indaga sulle interviste. Ora che il tappo è saltato, scrivono Valentina Errante e Massimo Martinelli, rischia di crollare un tempio costruito dal PDL con le interviste di tanti consiglieri regionali in cambio di finanziamenti alle testate locali di migliaia di euro, giustificate nelle motivazioni più varie. Cioè l'accusa è quello: si finanziavano testate locali che poi intervistavano e facevano fare bella figura ovviamente i consiglieri. C'è anche una festa che è finita sotto accusa, una festa... lo stesso Francone Fiorito ha detto: fu organizzata una festa con donnine seminude pagate tutte dal partito. Ma quali festini e donne nude? Risponde così Carlo De Romanis, 32 anni, anche lui pidiellino. Ma proprio zero, non mi va di passare per quello che organizza festini. È andata che Franco Fiorito probabilmente è un ladro e ora si difende diffamando un po' tutti, ce l'ha con chi gli ha votato contro e l'ha fatto fuori da capogruppo. Quali donne, ma quali seminude? Era una festa in costume con gladiatori e vestali. Fiorito si inventa le cose. Ma questa festa c'è stata oppure no? Mai fatta. Dovevamo organizzarla a Cinecittà, costava 50.000 euro, cifra troppo alta, speravamo in uno sconto e dunque niente celebrazione caratteristica del Natale di Roma il 21 aprile. E però De Romanis dice: ormai è un tutti contro tutti. Ieri mi è arrivata una mail con scritto: te venimo a piglia a casa, te sei divertito con i sordi nostri. Questo è il clima che si sta respirando a Roma, la regione Lazio, dove chissà, forse oggi annunciare le dimissioni da Renata Polverini oppure no, sta di fatto che il clima è tesissimo. Situazione economica invece difficile per le imprese italiane, da cui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Notizie non positive dal mondo economico per le imprese, il titolo di apertura del Sole 24 Ore edizione di oggi, uno studio che viene fatto per il Sole ed è questo il dato rilevato da Infocamere. Sono più di 100.000 su circa 500.000 le imprese che hanno chiuso in rosso tutti e tre i bilanci 2009, 2010 e 2011. Un dato dunque che fotografa gli effetti della crisi su diversi settori economici, dall'agricoltura alla società immobiliare, alberghi, ristorazione, i più colpiti. Un quinto delle società in perdita cronica, dunque da 3 anni. Trovate tutti i dettagli a pagina 3, se non c'è abbastanza leggete il dossier a pagina 9 della Stampa. Paolo Baroni, imprese stremate dai mancati incassi, è la CGA di Mestre che ha fatto uno studio dal 2008 a oggi. Secondo la CGA sono state almeno 14.000 le società, soprattutto piccole e medie, che hanno fatto la misera fine di morire per asfissia perché non si riescono a far pagare servizi e forniture. Dunque, visto che i rubinetti del credito sono chiusi, uno lavora ma non viene pagato sia dal pubblico ma anche da privati, ed ecco per questo problema di una montagna di pagamenti incagliati, 90 miliardi sono solo quelli dovuti dallo Stato o anche da altre aziende, è impossibile da incassare. Ecco che su 46.400 fallimenti dal 2008 a oggi, 14.400 sono dovuti a questa causa, cioè chiudono le imprese per troppo credito, non per troppo debito, perché lavorano ma non vengono pagate. E invece in prima pagina del Corriere della Sera un altro dato impietoso, è un'anticipazione di un rapporto del CNEL che verrà presentato domani, i numeri dei ritardi italiani di Enrico Marro: da primi a ultimi in 40 anni, spicca un dato sulla crescita della produttività dell'Italia in questo rapporto di 350 pagine, dal più 6,5% medio del 1979 siamo crollati nel primo decennio del 2000 un misero più 0,4%. Siamo diventati ultimi tra i paesi industrializzati, eravamo i primi, questo negli ultimi 30 anni. Intanto che succede dal punto di vista delle aziende sul fronte Fiat? Sapete che il Lingotto ha fatto un comunicato dicendo il piano Fabbrica Italia non si può chiamare più così, non c'è più, non ci sono più le condizioni. Oggi vi segnalo il ministro del welfare Elsa Fornero in una non intervista ma un colloquio evidentemente con Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, è il titolo di prima pagina: Fornero, che cosa chiedo alla Fiat? Tra l'altro di questo tema si occuperà Oscar Giannino alle 9. La Fiat ormai è una multinazionale, ma è anche una grande industria italiana, per questo Marchionne ha il dovere di spiegarci quali sono le sue strategie per l'Italia. Un'Elsa Fornero data per molto preoccupata nella chiacchierata con Repubblica. Marchionne risponda: gli ho comunicato una serie di date per l'incontro, mi ha risposto che era in partenza per gli Stati Uniti e mi avrebbe fatto sapere al suo rientro, ma finora il mio telefono non ha ancora squillato, sto aspettando sue notizie, me le aspetto nei prossimi giorni e non mi faccia dire di più. Così Elsa Fornero: a noi sta a cuore che la Fiat difenda e rilanci la sua produzione e i suoi investimenti in Italia. Insomma, l'appello lanciato al Lingotto da parte del governo e del ministro Fornero è questo: il governo certo non può imporre le sue scelte a un'impresa privata, non possiamo convocare l'amministratore delegato al ministero, ma all'amministratore delegato abbiamo chiesto un impegno preciso, ci dica come intende cambiare i contenuti del piano Fabbrica Italia. Tra l'altro un ministro, un Marchionne che è dato per stupito sulla stampa, sorpreso dalle polemiche, l'articolo di Teodoro Chiarelli lo trovate a pagina 8, un Sergio Marchionne che rientrerà a metà settimana, stupito perché a suo tempo aveva detto che avrebbe comunicato tutte le novità il 30 ottobre prossimo in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre 2012, e dunque il manager italo-canadese non immaginava il putiferio di reazioni che il suo comunicato di giovedì scorso ha scatenato. C'è anche una dichiarazione di Fassino, il sindaco di Torino, che dice: ho parlato e ho visto Sergio Marchionne 10 giorni fa, c'era anche John Elkann e mi hanno detto che Fiat è ben consapevole del suo ruolo e che non vuole fare degli scassi o degli shock, ma deve fare i conti con un momento molto difficile per tutti. Infatti Marchionne avrebbe detto: ma li hanno visti quelli che mi criticano i dati dell'auto di agosto? Si sono resi conto che le vendite in Italia sono ai livelli di 40 anni fa? Il caso Fiat... ne ripeto, alle 9 Oscar Giannino. Ho solo un minuto per dire che c'è anche un caso Kate. È uscito il settimanale Key in edizione straordinaria con Kate Middleton, Tette al vento. Questo è, cari italiani, io ce l'ho qui davanti. È successo un putiferio. Filippo Oreggi allunga il collo, dopo te lo faccio vedere, non ti preoccupare. Un putiferio con Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, che scrive una lettera su Repubblica, scrive una lettera pubblicata sul giornale dicendo: mio padre non c'entra nulla, mio padre si occupa di politica, non di servizi fotografici. Scrive a Francesco Merlo, molto piccata: un fazioso attacco a mio padre. E Francesco Merlo risponde: cara Marina, perché però, se non può bloccare queste foto che rischiano di creare anche imbarazzo con la casa reale britannica, Berlusconi riuscì a bloccare le foto di Marrazzo chiamandolo, cercando dicendo: guarda che ci sono quelle foto che ti riguardano con Marrazzo e transessuali. Il caso Kate e l'ossessione anticavaliere, queste foto... questo era il titolo del giornale. Oppure: scusati principessa oppure tieniti il top. Così l'Unità con Guia Soncini, un'intera pagina su queste foto di Kate Middleton, ripresa prima in Francia e ora dal settimanale Key. Anche il settimanale francese è proprietario della Mondadori, il proprietario Mondadori, e ora su Key in un'edizione speciale. Oggi ce l'ho qui davanti. La regina è nuda, Kate Middleton nuda in copertina su Key. Scandalo a corte e scandalo mondiale. Devo chiudere con la Gazzetta, purtroppo, parlare di calcio. Ci sono in testa Juventus, Napoli e Lazio. Il titolo della Gazzetta dello Sport è: Vucinic grinta Juve. Ma Juve che sembra davvero imbattibile, anche perché con questa media alla fine dell'anno si ritroverà con 38 rigori a favore. Davvero, scudetto ormai pare assegnato a questo punto, solo alla terza giornata. E pazienza. È tempo di giornale radio, rientriamo con Roberto Formigoni alle 8:15. Mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, per l'attualità politica siamo già in collegamento con il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Eccoci. Allora, visto che Berlusconi è tornato, è lui l'uomo del futuro, secondo lei, del Popolo della Libertà? È possibile che decida di sciogliere la riserva candidandosi, ma non l'ha ancora annunciato ufficialmente, sta riflettendo, anzi mi sembra che abbia detto che devono ancora accadere alcuni avvenimenti, la scelta della legge elettorale e il risultato delle elezioni siciliane. Ma dovrebbe lei cosa personalmente cosa vorrebbe? L'ho incontrato recentemente e ho visto che sta effettivamente valutando i pro e i contro. Lui vuole capire se la sua candidatura può portare un aiuto non solo al PDL in termini di consensi, ma anche ad una nuova soluzione, ad un nuovo rapporto dentro l'area dei moderati, alternativa al centro-sinistra. In questo caso scioglierà positivamente la riserva, se invece le cose andassero in un altro modo farà un passo indietro. E potrebbe l'idea di prendere lui voti e Montezemolo va a Palazzo Chigi, questo si è ipotizzato su qualche giorno? Sì, questo si è ipotizzato. Guardi, le cose stanno piuttosto in questi termini. PDL ha sempre lavorato e Berlusconi ha sempre preferito l'ipotesi di un grande rassemblement delle forze moderate, delle forze di centrodestra, di quelle che in uno schema bipolare si contrappongono alla sinistra. Se Montezemolo dice sì, se anche l'UDC, che però mi sembra abbia già detto di no, accettasse, insomma tutti quelli che accettassero di concorrere con noi ad un'alternativa al centro-sinistra, ci si siederebbe attorno a un tavolo e si valuterebbe il ruolo di ciascuno. Senta, però sta storia dell'IMU adesso, cioè sembra proprio il Berlusconi che arriva e dico togliamo l'IMU, ma l'IMU è stata messa perché avete tolto l'ICI e i conti poi andavano a carte 48 e bisognava mettere l'IMU, che è peggio dell'ICI, insomma. L'IMU è peggio dell'ICI, sì, questo si e sa. Gli italiani non possono più, dopodiché è chiaro che non si può, vabbè, è stata un'osservazione puntuale, nel senso che il tema dell'economia affrontato in termini molto seri di sistema, siamo in presenza di una crisi recessiva molto grave, è chiaro però che bisogna dare qualche segnale alle imprese, alle famiglie, togliere qualche tassa è fondamentale a questo punto, altrimenti se non riprendono i consumi interni, vede, anche la tenuta delle nostre aziende che riescono ad esportare, addirittura a far crescere le quote di esportazione, non serve, il problema è far ripartire i consumi interni li si fanno ripartire con qualche tassazione in meno sul lavoro, con qualche tassazione in meno sulle famiglie, e l'IMU è la tassa che simbolizza la vessazione sulle famiglie, perché colpisce i proprietari di case che in Italia sono l'80%. Ma anche lei la toglierebbe, cioè, oppure è un annuncio un po' una butade secondo lei, oppure è una cosa che no, dice bisognerebbe toglierla? L'annuncio va contestualizzato all'interno di un discorso di prospettiva economica alla quale stiamo lavorando come Popolo della Libertà, perché è chiaro che la partita si giocherà anche e forse soprattutto sui programmi economici, è finito il tempo delle risorse pubbliche abbondanti, è un tempo di scarsità, quindi si tratta di manovrare bene ciascuna delle leve. È stato un segnale per dire vogliamo dare più spazio ai consumi delle famiglie e quindi l'IMU, il toglimento dell'IMU è il primo obiettivo al quale stiamo pensando. Non era un contesto nel quale Berlusconi annunciasse e illustrasse il programma elettorale, era un contesto nel quale diceva anche gli obiettivi verso cui si sta lavorando, se saranno possibili li annunceremo ufficialmente quando presenteremo il programma elettorale. Senta, anche lei tifa Renzi di là? Tifa nel senso... Seguo con interesse. Perché questo endorsement per Renzi sembra l'abbraccio dello scorpione di Berlusconi, no? Guardi, la cosa che Renzi sta facendo è che sta non solo scompaginando il campo del vecchio Partito Democratico, ma non in termini soltanto anagrafici, anche in termini di cultura. Questo suo attacco alla cultura sessantottina è stato da questo punto di vista significativo. È chiaro che se vincesse Renzi, e sottolineo se, il Partito Democratico ne uscirebbe sconvolto anche dal punto di vista dei riferimenti culturali. Sarebbe quella Bad Godesberg per il PD che il PD italiano non ha mai voluto accettare, cioè una revisione completa, autocritica della storia di quello che è stato il PC, PDS, DS che è arrivato fino al PD. Da questo punto di vista è un'operazione interessante. Senta, presidente Formigoni, oggi ancora su Repubblica, so già che il nome la fa subito fibrillare. Non mi dica subito è spazzatura, eccetera. Parliamo di quello che oggi anche oggi Repubblica, ma anche il Corriere della Sera nei giorni scorsi ha scritto, e cioè oggi l'ultima di Repubblica, forse l'ha già visto, 15 delibere considerate generose sulle quali la procura starebbe mettendo l'occhio e l'ipotesi turbativa d'asta sul tema sanità in Lombardia. Lei è davvero tranquillo, perché ci sono interrogatori di persone della Fondazione Maugeri che praticamente profilano anche l'ipotesi di delibere tutte aggiustate per portare soldi a questa fondazione. Allora, non solo è spazzatura riciclata, perché ne hanno già parlato ad aprile, a maggio, a giugno, adesso pensano che essendo passata l'estate la gente ha dimenticato, quindi Repubblica, quel giornale che io simpaticamente chiamo la Pravda per il rapporto con la verità, è lo stesso, il rapporto tra Pravda e Verità e Repubblica e Verità è lo stesso. Repubblica pensa che i cittadini l'abbiano dimenticato durante le vacanze di agosto e quindi lo ricicciano per la quarta volta. Pure l'inchiesta va avanti, insomma, magari perché l'inchiesta va avanti e emergono nuovi... Ma va? No, le assicuro, sono gli interrogatori di aprile, già abbondantemente il 23 aprile se non sbaglio, già abbondantemente diffusi, ripeto, aprile, poi a maggio, poi a giugno. Ma si tratta di questo: le delibere che la Regione di Giunta abbiamo preso nel corso di questi 10 anni sono delibere di sistema, cioè riguardano tutti gli ospedali pubblici e privati di Lombardia, perché così noi agiamo, e sono delibere che noi mettiamo immediatamente su internet. Le sembra che se noi avessimo privilegiato la Maugeri o chi che sia, dando un euro in più alla Maugeri di quello che gli spettava, non sarebbe stata l'immediata rivolta di tutti gli altri istituti pubblici e privati lombardi che si vedevano defraudati di quest'euro? Ma la Repubblica pensa che siano tutti cretini gli operatori privati e pubblici lombardi? Stiamo parlando di istituti prestigiosissimi, dall'IEO del professor Veronesi alle cliniche San Donato, alle cliniche Rotelli, al San Raffaele di quell'epoca, anche di quest'epoca, alla famiglia Rocca. Cioè, noi è chiaro che la torta è sempre limitata, noi l'abbiamo sempre divisa, cioè, con criteri oggettivi. Ripeto, se ci fosse stato un errore di calcolo o un privilegio, tutti gli altri... Sa quanti ricorsi sono stati fatti contro le nostre delibere istituti pubblici e privati? Quindi, diciamo, la magistratura li ha respinti. Questi interrogatori, nei quali, per esempio, l'ex direttore della Fondazione Maugeri, Passerino, dice Pierangelo Daccò ci aiutava. Noi chiedevamo a lui cosa ci serviva e lui andava in regione, non sapevamo come, e venivano risolti i problemi. Ecco. Ma queste sono ricostruzioni che devono essere confrontate con la versione di Daccò. Qui si sta parlando di rapporti tra privati, c'è stata malversazione, di denaro privato. La Regione Lombardia non ha perso un euro. D'altra parte, mi scusi, questi scenari fantasmagorici che ormai soltanto Repubblica descrive, ma se fossero stati, se la procura li avesse ritenuti fondati, ma mi scusi, avrebbe agito nel mese di aprile. Sono testimoni ritenuti inattendibili dalla stessa procura. Quindi lei questi... Soltanto Repubblica, sì, che sa bene a sé che sono inattendibili, ma che ha deciso di condurre una guerra mai prima vista contro il presidente Formigoni, sì, perché non c'è mai stata prima una guerra, ha deciso di utilizzarli per cercare di indebolire la figura. Beh, però non è una cosa personale, non so, io ho qua davanti il titolo del Corriere di venerdì: delibere su misura grazie a Daccò alla Maugeri 35 milioni l'anno in più, per esempio. Questo sì, certo. È lì, sempre l'interrogatore. La testimonianza di un testimone ritenuto inattendibile dalla stessa procura, Tornadiglio. Ma le stavo dicendo, è stato il programma politico di Repubblica che in un editoriale del 1° dicembre dell'anno scorso ha scritto papale un editoriale in prima pagina: l'obiettivo politico a questo punto è far fuori Formigoni. Abbiamo abbattuto Berlusconi l'11 novembre, a giugno aveva vinto Pisapia a Milano, adesso bisogna voltare completamente pagina, dando entro la fine dell'anno, al 2011, le dimissioni, sì, di Formigoni. Sono partiti con un attacco, ripeto, di violenza senza precedenti. L'hanno fallito, sono passati 9 mesi, lo sanno anche loro che non c'è nulla di penalmente rilevante. e allora si scatenano nel gettare fango inverosimile, incredibile, inattendibile per la stessa procura contro Formigoni. Hanno già, prima dei bei processi, hanno tirato fuori anche già, sono spuntate anche altre due vacanze, credo, oltre ai viaggi Caraibi in Patagonia, se le ricordi? Ho 65 anni, in genere cerco di dare, no, sì, ne ha fatte, due ne ha fatte settimane d'estate e una d'inverno. Grazie al cielo ho un reddito non alto, perché oggi i politici, almeno quelli come me, non hanno grandi redditi, ma sono sempre stato in grado, come ognuno sa, di pagarmela da me. Comunque, guardi, di queste cose abbiamo già parlato talmente tante volte che la gente ne ha le scatole piene. Ma allora, visto che lei non... L'obiettivo di Repubblica e dei miei avversari è fallito miseramente, perché sono passati 10 mesi e non solo le forze politiche del Consiglio regionale mi sostengono ancora, ma i cittadini lombardi che mi conoscono non hanno creduto a questa campagna di dileggio. Nel corso di questa campagna, ripeto, furibonda, io ho perso soltanto 6 punti percentuali di consenso. Nessuno avrebbe resistito come ho resistito io, ma per un semplice motivo, perché i cittadini vedono che la Lombardia è la regione meglio amministrata d'Italia, che la nostra sanità è quella che dà i servizi migliori e costa di meno, e dicono: ma che Repubblica vuole raccontarci che anche la più corrotta è quella che costa di meno, che funziona meglio della più corrotta? Ma Repubblica, scrivi i libretti di favole, e difatti sono articoli del tutto fantasiosi. Repubblica continua a dare metri quadrati nel tentativo disperato di dare corda alle sue motivazioni. Però l'inchiesta c'è, che non trovano risposta. Cosa vuol dire? Secondo lei finirà, visto che lei appunto è indagato, finirà nel nulla, verrà archiviato tutto? Io ho già detto, guardi, la Procura di Milano ha sempre dato grande attenzione alla mia azione. Io ho ricevuto 13 avvisi garanzie in questi 17 anni e sono stato rinviato a giudizio 11 volte, mi sono sottoposto da cittadino rispettoso delle leggi a 11 processi e ho avuto 11 assoluzioni. Quindi in questo momento sto vincendo 11-0, questa è la 12ª causa che andrà nel nulla, vincerò 12-0. Repubblica ci intinge dentro, ripeto, nel tentativo disperato di danneggiarmi, e se sono, è riuscito a portarmi via 6 punti percentuali di consenso, ma assicuro che vincerò ancora una volta io, perché vincerà ancora una volta il buon governo di Regione Lombardia, che nessuno è in grado di contestare. Cioè, a livello penale, dice, no? Non che si ricandida come regione, vincerò io a livello di questa indagine. Vincerò anche dal punto di vista politico. Ah. Certo, non mi ricandido, perché dopo 4 mandati ho già annunciato sarà l'ultimo. Sì, lascerò il mio incarico. Però nel 2015, sì. Ma i sondaggi mi danno ancora vincente in tutto questo periodo. L'azione di Repubblica non è comunque riuscita a far vincere. Le ha fatto perdere un 6%. Però mi dica questo in conclusione, così risponde alla domanda che le fa Repubblica, alla quale no, Repubblica dice non risponde. Ma scusi, rappresento un'altra testata quotidiana, ma faccia le domande dell'altra testata quotidiana, ma perché dovete inseguire anche voi Repubblica? Ma noi dovete avere questo complesso, non inseguire, di inferiorità. Ma no, ma che complesso di inferiorità? Di un concorrente. Ma no, che complesso di inferiorità? Però le domande del Sole 24 Ore. Ma glielo fate. Non le rispondo, ho già risposto non risponde, tante volte. Non risponde. Alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei e dice: ma fai pubblicità a noi e non fare pubblicità alla stampa concorrente. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie, buona giornata. Mi ha salvato Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia. Spero di non essere licenziato, ma penso e spero di sì, cioè nel senso spero di rimanere. Ci fermiamo, quanti minuti? 5 minuti e poi parliamo della regione Lazio, una regione che sembra terremotata da utilizzo di soldi, del finanziamento ai partiti, soldi nostri, finanziamento pubblico utilizzato per che cosa? Pare comprarsi le BMW, il SUV, le smart, le cene, le feste, i book fotografici. Questo all'interno del Popolo della Libertà, dove oggi la governatrice Renata Polverini ha detto potrebbe anche rassegnare le dimissioni in un consiglio regionale straordinario. I fondi ai partiti nella regione Lazio e il terremoto politico dopo l'accusa all'ex capogruppo Fiorito del PDL di averli utilizzati per fini personali. Tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, allora, che sta succedendo alla Regione Lazio, dove oggi in un consiglio regionale straordinario la governatrice Renata Polverini potrebbe anche annunciare "mi dimetto". Succede da qualche giorno che una brutta storia di finanziamento pubblico ai partiti, dunque soldi nostri, l'accusa nei confronti dell'ex capogruppo del Popolo della Libertà della Regione Lazio, Franco Fiorito, detto Air Batman, da quando cadde da una moto da fermo, questo narra la leggenda. Air Batman accusato di peculato, aver utilizzato cioè soldi nostri, per che cosa? Che ne so, come racconta oggi Fabrizio Roncone sul Corriere, per comprarvi una BMW X5 da 88.000 euro. E sì, lo so, dice, come presidente di commissione ho diritto all'auto blu, ma l'auto blu non mi bastava, avevo un tremendo bisogno di questo SUV. E poi lui però ha accusato suoi colleghi di partito a dire, la traduco così, guardate che anch'io ho pagato spese di cene, ristoranti, book fotografici a tutti i colleghi, feste, festini addirittura, gente che si portava l'amante in giro. Insomma, sta implodendo davvero questa vicenda dei soldi pubblici nelle regioni. Io per questo ho richiamato Pierfrancesco De Robertis, collega che del Quotidiano Nazionale, autore tra l'altro della Casta Invisibile delle Regioni, che è in libreria da qualche giorno. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Giuseppe Rosso di Vita, buongiorno, è un consigliere regionale del Lazio dei Radicali. Buongiorno Rosso di Vita. Buongiorno agli ascoltatori e agli ospiti. E lei sta vivendo, lei insieme al suo collega e consiglieri, insomma i radicali, adesso non vogliamo fare non faccia il bel maestrino, però insomma voi dei radicali l'avevate detto qualche tempo fa, guardate che qui i rimborsi della Regione Lazio sono un qualcosa di scandaloso. Che cosa c'era di scandaloso? C'è di scandaloso innanzitutto l'entità, ma poi il fatto, non faccio il maestrino, ma insomma c'è la nostra proposta di legge, la prima proposta di legge che abbiamo depositato nel Consiglio regionale del Lazio appena ci siamo insediati, come ovunque dove abbiamo avuto la possibilità anche tramite strumenti di democrazia diretta, per fare appunto l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, che è una cosa diversa dalla semplice anagrafe patrimoniale dei consiglieri e che, tanto per dirne una, avrebbe consentito ai cittadini di sapere di queste cose e quindi forse anche di evitarle, dato il controllo determinato dalla pubblicità nella gestione di questi fondi, sì. Comunque avrebbe consentito ai cittadini di sapere questo. Ma noi senta, abbiamo pubblicato sì. il nostro bilancio, questo ha scatenato un po' il finimondo. Ma le chiedo questo, ci faccia capire, cioè a quanto ha diritto, oltre allo stipendio, quanto è lo stipendio del consigliere regionale nel Lazio, credo? Netto intorno a 8.000 euro. 8.000 euro, oltre a questo come indennità. Sì, come indennità. E poi c'è qualcosa in più, cioè quanto si mette alla fine del mese in tasca? Poi ci sono altri 4.000 euro che sono il cosiddetto rimborso delle spese per mantenere rapporti con i propri elettori. Sono voci che sono ricalcate sostanzialmente da quelle della Camera dei Deputati, ma oltre a questo, quello che questo in qualche modo si sapeva, e l'anagrafe patrimoniale soddisfa questo tipo di conoscenza, ma oltre a questo però ci sono i contributi erogati ai gruppi consigliari che complessivamente vanno a cubare delle cifre molto importanti e che noi nel Lazio abbiamo reso pubbliche. Vorremmo saperlo però anche nelle altre sì, regioni. Quanto sono? Cioè, quanto sono? Ovviamente dipende dal numero dei consiglieri, immagino, ma mediamente è vera la cifra che credo Sergio Rizzo scriveva sul Corriere, cioè 144.000 euro a consigliere più o meno? Come media di sì, questa non è una cifra fissa, perché il contributo viene determinato di anno in anno con la legge finanziaria e la legge di bilancio, dove si approva una parte di bilancio che è quello del Consiglio regionale, che ha un'autonomia contabile, e dunque un capitolo di spesa che va sotto la voce finanziamento dei gruppi consigliari. Dei gruppi consigliari. Negli ultimi anni è stato circa di 8 milioni e mezzo l'anno. E ovviamente diviso per i gruppi consigliari. Tra l'altro, guardi, il suo audio si sente così e così. Magari proviamo a richiamarlo, Rosso di Vita. Nel frattempo facciamo due chiacchiere con Pierfrancesco De Robertis, come detto, autore della Casta Invisibile delle Regioni, è stato nostro ospite anche settimana scorsa. Allora, Pierfrancesco, qui è una storia che, come scrive Fabrizio Roncone oggi sul Corriere, comunque vada a finire, già una storia tragica, magnifica, emblematica. Dentro c'è tutto il peggio della politica italiana, cioè i soldi nostri del finanziamento pubblico utilizzati per cravatte Marinella, feste, forse festini, ma adesso le persone negano, sdegnate, amanti, macchine nel senso di automobili, book fotografici. Questo è la politica italiana nella regione Lazio. Guarda, io nel libro ho definito una seconda maxi rata del finanziamento pubblico, quello che viene dato alle regioni. Le regioni intendendosi sia consigli regionali sia governi regionali. Cioè è una grande fetta di soldi, si parla di un miliardo e mezzo, forse anche due, è difficile quantificare, che vengono dati ai partiti attraverso le istituzioni per poter mantenere questa classe politica intermedia, il ventre molle della classe territoriale. Una volta i partiti avevano i soldi per stipendiare funzionari a vari livelli, ora i soldi non ce l'hanno più e quindi in qualche modo sfruttano i contributi ai gruppi, le cariche, le carichette. Sì, ma capisci, ma un conto è mantenere la politica, ma qui siamo veramente, secondo le accuse, al book fotografico, alle feste, sì, ai festini. Cioè, il fatto che la cosa grave, io ho chiamato la casta invisibile proprio perché sono dei livelli di potere che tutto sommato ogni tanto emergono alle cronache con questi scandali, ma per il resto poi vivacchiano e nessuno se ne accorge. Invece sono soldi che vanno via, anche perché la cifra di cui parlavi tu dei soldi ai gruppi, no? 8 milioni e mezzo, che sono molti, però diventano un'enormità quando si confrontano con quelli delle altre regioni, perché quando si parla di regioni il dato va sempre confrontato con quello delle altre, perché se io ti dico che il Lazio costa più di 100 milioni l'anno, il Consiglio regionale, è molto, ma se io ti dico che quello dell'Emilia Romagna ne costa 38, allora il dato del Lazio diventa... Infatti l'idea era quella di rapportarlo a regioni, come credo anche la Lombardia, che costi 8 euro pro capite a cittadino, mentre ci sono cifre da 30-40 euro come altre regioni, come la regione Lazio. Tra l'altro io devo dire, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Noi avevamo fissato anche come ospite il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mario Abruzzese, che però ci ha fatto sapere ieri che, in attesa di quello che dirà Renata Polverini, la governatrice, che probabilmente oggi o forse rassegnerà le dimissioni, ha detto: prima voglio sentire, insomma, per anche rispetto istituzionale, cosa da dire la governatrice, e quindi non è dei nostri. Tra poco sentiremo anche Giorgia Meloni come ha affrontato questo argomento, che è diventato un argomento importante all'interno del partito, del Popolo della Libertà. Eccoci qua allora a quello che sta succedendo nella regione Lazio: l'utilizzo pare disinvolto dei soldi nostri. Giorgia Meloni, sentiamo che ha detto su Franco Fiorito, vale a dire l'ex capogruppo PDL, che è finito sotto accusa, ma a sua volta accusa un po' tutti i suoi colleghi. Ti compri la BMW, soldi del gruppo, che sono soldi degli italiani, trasferisci i soldi su un conto estero e il PDL non può avere nessun imbarazzo a dire che devi essere cacciato a calci nei denti fuori dal partito. Eccolo qui, cacciato a calci nei denti, anche perché tra l'altro Fiorito pare abbia tirato in ballo la sorella di Giorgia Meloni, dicendo anche lei lavora alla regione Lazio e non si fa vedere. Insomma, ma Rosso di Vita, so che lei è dei radicali e quindi dice che me ne frega a me di quello che succede all'interno del Popolo della Libertà, ma cos'è, una guerra tra bande ormai? A che livelli siamo arrivati? Ma sì, ma questo accade quando vogliamo fare un discorso, ampliare un attimino il discorso. Tutto questo è il portato del sistema, innanzitutto del sistema elettorale con il quale vengono appunto scelti i rappresentanti, dei vari partiti in consiglio regionale e che è basato sulle preferenze tanto mobilizzate in questo momento. Il signor Franco Fiorito, che adesso dicono deve essere cacciato a calci tra i denti, è un signore che ha portato, e come gli ha fatto comodo, che ha portato circa 30.000 preferenze alla Presidente Borbolini, al PDL e quindi a tutto il centrodestra, sì. Da solo 30.000 preferenze. E vabbè, certo, però, però nel momento in cui si dovesse scoprire che una volta ha portato tante preferenze, però che ruba, se si dovesse scoprire così, uno non è che può dire lo scopre dopo? Si può scoprire. Una domanda, quanti soldi è costata la campagna elettorale del signor Franco Fiorito? Quanti soldi ci vogliono per prendere 30.000 preferenze? Anche perché narrano così sul Messaggero, narrano che avesse affittato 18 smart durante la campagna elettorale, tutti col nome Fiorito, da portare ovviamente in giro per fare campagna elettorale. Ma ci tolga una curiosità, questo soprannome Air Batman, lei lo conosceva? Cioè, è vero, lo chiamavano così? No, dall'articolo di Francesco Mera, detto, pare detto così, Air Batman, da quando cadde da fermo da una moto, così, non so, leggenda vuole. Sentiamo intanto Giulia che ci ha chiamato da Prato all'800240024. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Ecco, semplicemente io volevo segnalare che non tutti stanno pagando la crisi allo stesso modo, e non sto dicendo una novità naturalmente, è perché appunto io, dipendente pubblica, voglio dire che sto per rendere metà del mio buono pasto, perché io percepisco al momento un buono pasto di 12 euro sì. E mi verrà decurtato fino a 7 euro, quindi diventerà dal primo di ottobre 7 euro. E però faccio anche presente che la mia retribuzione annuale lorda non supera i 30.000 euro. Ho capito, Giulia, ma cosa c'entra con il tema? Cioè, che lei a sentire queste cose, immagino. No, ascolti, c'entra perché io quando sento parlare di dipendenti pubblici, capito, che non vengono trattati alla stessa maniera, cioè ci sono sempre dei privilegi che comunque continuano a reinvestire alcune categorie di dipendenti pubblici, mentre altre categorie come me non solo la pagano la crisi seriamente, ma devono anche sorriderne, perché io ora sto per entrare come diciamo ente per cui lavoro anche nella customer satisfaction, sì, cioè sì. Della serie devo essere anche contenta, e lo sono, per carità, perché sono di quelle che ogni giorno ringrazia di quello che ha, però non posso lamentarmene, non posso protestare, non posso alzare la testa più di tanto, perché c'ho pure la customer. No, ragazzi. Ma è chiaro, però c'ho pure la customer. Senta, ma Giulia, ma sentire invece quello che succede alla Regione Lazio, che prova per portare, è questo il contrasto che ci vuole mettere in luce, cioè lì non mi... Ma via, mi girano di molto, ma non solo per quello, anche per altre cose, ma comunque che vuole, queste sono cose che confermano che l'andazzo così com'è non può continuare. E, ok, quando si dice che bisognerebbe tutti avere, no, un pochino più di, come dice Monti, che dobbiamo tutti rientrare un pochino, ma io sono di quelle, nel senso, sono la prima predica in questo modo e in questo vabbè senso, diciamo, però dice almeno il diritto alla lamentela lei giustamente lo vuole tenere alto. Grazie Giulia da Prato. Sempre, non so se sia leggenda o meno, ma Francone Fiorito, beh, ormai è diventato un personaggio quasi grottesco, tra i suoi slogan una volta ha messo un magnato 12 bignè allo Zabaione. Vabbè, qui De Robertis c'è anche un po' di accanimento, forse, cioè, è una figura quasi perfetta per incarnare, insomma, il film di Alberto Sordi, una sì, di queste cose. La lotta, un po' la lotta alla casta. Cinema, cioè. Ma che succede oggi, tu che segui la politica, tu che sei lì a Roma e che conosci, cioè, davvero la Polverini si può dimettere? Potrebbe ma guarda, la Polverini è 2 anni che è lì, i costi del Consiglio regionale del Lazio erano questi prima che lei arrivasse, sono questi da quando ha iniziato, quindi se aveva delle lamentele, se erano veramente sentite, le poteva fare 2 anni fa, quindi insomma questa alzata di scudi a metà della legislatura, quando niente è cambiato, è un po' sospetto. Ma qualcosa però deve succedere, anche la rabbia di Giorgia Meloni, alterà la voce, no? Alterà la voce, ma in questi casi succede sempre che poi si dice ah, va bene, basta, tagliamo, poi quando l'attenzione mediatica un po' scema, perché inevitabilmente funziona, resta tutto com'è, basta guardare i dati di tutti i costi della politica a tutti i livelli, no? Non c'è mai un dimezzamento, si resta sempre più o meno si galleggia e si aspetta che passi la nottata e finirà così anche per la Polverini oggi. Ovviamente ci sono anche diciamo dossier contro dossier, come Fiorito che ha accusato di aver organizzato una festa a 50.000 euro a Cinecittà con delle gnocche travestite con le gonnelline bianche. Oggi risponde il presunto organizzatore di questa festa, che è un suo consigliere, un suo collega, che dice ma che festa, era un ipotesi di festa poi saltata a Cinecittà per festeggiare il Natale di Roma il 21 aprile, poi è saltata, erano semplicemente delle ancelle, ma poi non abbiamo fatto niente di tutto questo a Cinecittà. Ma per concludere, Rosso di Vita, succede questo? Cioè si organizzano anche feste o presunte, o si tenta di organizzare feste a Cinecittà con i soldi pubblici per il Natale di Roma, questo nella Regione Lazio? Quanto narrano le cronache di giornale in questi giorni, pare di sì. Ripeto, con un po' più di trasparenza tutto questo si sarebbe potuto evitare e sarebbe le cose potevano andare in modo diverso. Intanto staremo a vedere come finisce oggi la questione, se finisce oggi o gli sviluppi con il Consiglio regionale straordinario convocato credo per oggi pomeriggio alle 16 con la governatrice Polverini, che vorrà dare delle comunicazioni urgenti. Io vi ringrazio ancora, ricordo se volete documentarvi il libro di Pierfrancesco De Robertis, La casta invisibile delle regioni, Rubettino editore, così come ringrazio il consigliere dei radicali della Regione Lazio Giuseppe Rosso di Vita. Ci fermiamo qui, trovate tutto ovviamente su radio24.it, potete anche scriverci a 24mattino@radio24.it e seguirci su Twitter 24 mattino, su Facebook 24 mattino, su Twitter ci sono anch'io, Alino Milan, mi trovate se volete, e saluto tutti da Filippo Aureggi in regia, Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi. Che dire, vi diamo l'appuntamento a domani e svegliatevi alle 6:30 che noi ci siamo. 24 mattino.